Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya 17 Temmuz 1925 Ferrara doğumlu İtalyan şarkıcı ve aktris Carla Gagliano. Yani 1950'lerin unutulmaz sesi Carla Boni'nin şarkıları konuk olacak. Carla Boni'nin Carla Boni olmasının komik bir hikayesi var. Bir gün kuzeni Cafe Boni adında bir kafede bir piyango kazanıyor ve eve heyecanla geldiğinde diyor ki Gagliano olan soyadımızı hemen Boni diye değiştirmemiz gerekiyor diyor. Ve ondan sonra Carla Boni oluyor. 1935'te henüz 10 yaşındayken Campagna Ferrarese di Attore Bambini adlı çocuk oyuncular topluluğuna katılıp burada şarkı söylemeye başlıyor. Şimdi biz Carla Boni'den unutulmaz bir Jezebel dinleyeceğiz. Arkasından da Venedik Uluslararası Şarkı Festivali'ni ilerideki kocası olacak Gino Latilla ve Quartetto Cetra ile birlikte kazandıkları parça olan Vecchia Europa'ya kulak veriyoruz. Sembravi discesa dal cielo ed eri Jezebel, Jezebel. Simile a un angelo, la voce di un usignol, Jezebel trascinò l'anima credula, demonio dagli occhi blu, credere volle il cuore a quella tua bocca che dava la voluttà. Jezebel, Jezebel, a nulla so creder più, mai fatto odiare il cielo, Jezebel. Angelo e demone, quel tuo dolce volto m'apparì, destando nel mio cuor un sogno d'estasi, come l'angelo dell'amor. Ma poi cuor d'amante mai sentì, inganno più crudel, bugiarda e perfida, solo un demone sei tu, demonio dagli occhi blu, credere volle il cuor a quella tua bocca che dava la voluttà. Jezebel, Jezebel, a nulla so creder più, mai fatto odiare il ciel, Jezebel, angelo e demone. So creder più, mai fatto odiare il ciel, Jezebel, ed ancora voglio te, Jezebel, Jezebel, fascino antico di tante sue città. Amo l'Europa 800, dove c'è ancora sentimento, dove gli amanti sotto la luna d'argento sanno d'amor parlare. Momenti d'incanto che un valzer può sempre donare. Vecchia Europa del mio cuore, dei begli anni miei, romantica nell'anima tu sei. I tuoi languidi violini dove sono più? Addio ricordi miei di gioventù. Dal Tevere fino alla Senna mille valzer cercherò, fra i tigli del prater di Vienna, il più bello coglierò. Vecchia Europa, dammi un valzer, uno solo ancora, è musica che parla al cuore. Di un valzer felice, porta nel cuore la pace, lungo le strade delle tue vecchie contrade ritorneranno gli amori di un tempo, tra i fiori di mille città. Vecchia Europa del mio cuore, dei begli anni miei, romantica dell'anima tu sei. I tuoi languidi violini dove sono più? Addio ricordi miei di gioventù. Dal Tevere fino alla Senna, mille valzer cercherò. Fra i tigli del prater di Vienna, il più bello coglierò. Vecchia Europa, dammi un valzer, uno solo ancora. Jezebel ve Vecchia Europa dinledik Carlo Boni'den. Konservatuvardaki eğitiminden sonra Maestro Tito Petralia ile çok da onu tatmin etmeyen bir deneme kaydından sonra Pippo Bartizza, o da bir maestro, dikkatini çekiyor ve onu orkestrasına alarak ilk kayıtlarını kaydetmesini sağlıyor. Ardından müzikal olarak çok sofistike olmasa da ticari olarak da pek başarılı olmayan bu kayıtlardan sonra George Gershwin'in Le Luci di New York eseriyle ilk başarı kıvılcımları gelmeye başlıyor. Il Mago Baku radyoda çok büyük bir başarı yakalıyor. Ve With a Song in My Heart'ın İngilizce versiyonu olan Come Canta il Mio Cuore ile tanınırlığını çok ama çok arttırıyor. Şimdi biz önce Il Mago Baku, arkasından da Come Canta il Mio Cuore'u dinliyoruz Carlo Boni'den. Ay comba comba comba comba cero, ay bongo bongo bongo bongo cero, birigiti que sonando el comba cero, bongo cero que será, bongo cero que será, ay comba la comba la comba la comba la cero, ay bongo bongo bongo bongo cero, birigiti que sonando el comba cero, bongo cero que será, bongo cero que será. Suena ya el tambor, piriquiti, bom bom bam. Y vuelve a replicar, piriquiti, bom bom bam. Ay, cómela, cómela, cómela, cómela, cero. Ay, bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Piriquiti, que sonando el bombo cero, bongo, cero, que será, bongo, cero, que será. We'll be right back. suena ya el tambor, tiquitiquí, bombomba. Y vuelve a replicar, tiquitiquí, bombomba. Ay, cúmala, cúmala, cúmala, cúmala, cero. Ay, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Tiquitiquí, que es el arte del cumba, cero, cumba, cero, ¿qué será? Bongo, cero, ¿qué será? Un pancero, un pancero. Come canta il mio cuore, se tu appari in un raggio di sole. Come canta il mio cuore se la luna si posa su te, forse un eco in me di ciò che sei tu, o musica dell'amore. Come canta il mio cuore nel sentirti così sospirare, come canta il mio cuore nel sentir la tua voce tremare. Sei tu solo che sai destare in me la più bella canzone d'amore. Adoro, lo sai, ed io vivo per te più che mai. Ti vorrei cantare la canzone d'amore che ti canto così col cuore. With a song in my heart. Maga Baku ve Come Canta Il Mio Cuore dinledik Carla Boni'den. Asıl şöhret 1953'te Flossenden'la birlikte Sanremo'ya katıldıkları parçayla geldi. Viale d'Autunno. Aynı etkinlikte Carlo Alberto Rossi tarafından bestelenen Acqua Amare adlı şarkıyı da sundu. Ve bu şarkı finale çıkmasa bile bugün hala festival tarihinde kırılamayan 3 dakika 5 saniyelik bir alkış rekoru kazandı. Şimdi biz bu iki Sanremo parçasına kulak verelim. Önce Viale d'Autunno, arkasından Acqua Amare ile Carla Boni, şimdi Itabella'da. Giallito d'autunno, tristemente mai detto, è finito l'amore più vero, il più puro, il più splendido amore. Ma una lacrima bagna il tuo viso, quella lacrima dice al mio cuore. Potrò lasciarti più, mai più, mai più, perché nel mio destino ci sei tu. Non ci lasceremo mai, lo sai, lo sai. L'amor che ti giurai vive ancora di più. Tutta una vita di dolcezze, di tenerezze non può svanire. I lunghi baci, le carezze, le dolci ebbrezze non sa mentire. Lasciam parlare il cuore che vive in ansietà, che trema di timor, che vuole questo amore. Oh, ne morrà. Potrò lasciarti più, mai più, la gioia ed il dolore. Potrò lasciarti più, mai più, perché nel mio destino ci sei tu, ci sei soltanto tu. Tear a star from out of the sky, and the sky feels blue. Tear a petal from a rose, and the rose weeps too. Please keep the spark away. Would you take the wings from a bird so that they can fly? Would you take the ocean's roar and leave just tell me, would you take the wings from a bird so that they can't fly? Would you take the ocean's roar and leave just a don't love from me. Don't take your love. Don't take your love. Don't take your love. Don't take your love from me, child. Yeah, don't take your love. Don't take it. Don't take it. Don't take it. Don't take your love. Don't take your love. Don't take it from me. Viale d'Autunno ve Acqua Amare dinledik Carlo Boni'den. Carlo Boni kariyeri boyunca 1953'den 61'e kadar Sanremo Festivali'ne, 52'den de 62'ye kadar Napoli Festivali'ne 5'er kez katıldı. Ayrıca dönemin pek çok diğer ünlü müzik festivalleri olan Canzonissima ve Un Disco per l'Estate'ye de katıldı. 1986'da Paolo Villaggio'nun sunduğu Un Fantastico Tragico Venerdi'de Achille Togliani ve Giorgio Consolini ile birlikte 13 bölüm boyunca düzenli bir konuk olarak yer aldı. En büyük başarısı uluslararası da bir tanınırlığı olan Besame Mucho'nun tutkulu bir şekilde yorumuyla geldi ki bu Carlo Boni'yi daha sakin tarzıyla tanınan Nila Pizzi'den ayırdı. Aynı yıl Guido Malatesta ile birlikte I Miliardi adlı filmde yer aldı. Biz şimdi önce 1955 yılında Sanremo'ya katıldığı ve kazandığı Estelle Napoli, arkasından da 64'te Un Disco per l'Estate'ye katıldığı Piccolo Spiaggia'ya kulak veriyoruz. E nella notte giorno d'autunno e vierno d'estate. Qua luna primavera, ecco la notte nera, ca qua ne c'è la sera, e stelle c'è la sta. Perfetto fenomeno per Marcellina, si luce luce lo tremella per c'era l'oscurità, e tanto luce no che stelle so, gelose l'oro, gelose Napoli che è tutta la montagna d'oro, ma è stelle Napoli più belle e limpide se lo può sapere. Sosti brillante qua, tu porto in fronte a te. Sto occhio che bruciano, che chiusa a pizza, non guardano a me. Sembra fatta per noi, devo baciare. Estelle Napule ve arkasından da Piccolo Spiaggia dinledik Carla Boni'den. Bir süre bir dinlenme, bir ara verme dönemine giriyor. Bir takım konserlere katılıyor falan. Arkasından Nila Pizzi, Gino Latilla ve Giorgio Consolini ile birlikte Quelli di Sanremo, Şu Sanremo'dakiler adlı bir grup performansına katılıp kariyerini sürdürüyor. Alberto Latuada'nın erotik melodramı La Cicala'da Virna Lisi'nin şarkı söylediği bölümlerin dublajını üstleniyor. 90'ların sonlarında Flavin'in single'larına katılımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekiyor. Ve kendi en büyük başarısı Mambo Italiano'yu da bu dönemde seslendiriyor. Arkasından biraz müzik dedikodusu olarak birkaç kısa otobiyografik romanları yayınlanıyor ve bu eserlerde kurgusal olarak sunulmasına rağmen Nila Pizzi, Cinico Angelini, Gino Latilla ile gerçek olaylara ve kişilere pek çok gönderme içeriyor. Biraz ses getiriyor dönemde. Şimdi biz önce Quelli di Sanremo'dan Fantasia numara 3, arkasından da bir Napoli güzellemesi olan Capinera'ya kulak veriyoruz. Magica e profonda, ci spaventi fuori se diventi un'onda, fai come fece un dì l'amore mio, la riva baci e poi le dai l'addio, acqua di mare. Di mare, sono tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, sono le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma mai sfiorirà la loro beltà. Sono tutte belle le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che mai dato il tuo bene profondo. La mamma dei bimbi miei. Se l'ape cerca il fiore, se il fiume cerca il mare, anch'io cercavo solo te per annullarmi in te, anch'io amare un'altra. Prende come me, forse non c'è, non mi lasciare mai, non mi lasciare mai, io vivo del tuo amore, tu lo sai, amare un'altra dopo te. Non è possibile. color ciclamino veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigo Gin. Passeggiando per la via lo cantava mio dolce amor, Gigo Gin speranza mia, coi tuoi baci mi rubi il cuor. Passeggiando per la via lo cantava mio dolce amor, Gigo Gin speranza mia, coi tuoi baci mi rubi il cuor. Sai che i papaveri sono alti, alti, alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, sei nata paperina. Che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi pensierosa, pensi forse a qualche cosa che ti manca, non lo so. Primavera, sole, fiori, capinera è sempre là, sta affacciata e guarda fuori, cosa vuoi? La libertà. Non hai casa, non hai mamma, dove andrai? Rispose Andrea. Stretta al cuor finché una sera più non trovai a casa capinera. E lei cantava, cantava Giuliva, di trilli e grida la casa mi empiva, ed un bel sole di Sanremo'dan Fantasia numara 3 ve Capinera'yı dinledik Carla Boni'den. 22 Kasım 2000'de Uluslararası Sinema ve Gösteri Müzesi'nin kariyer başarı ödülüne layık görülüyor. Arkasından 2001'de Narciso Parigi ve Mario Trevi ile birlikte Mezzogiorno in Famiglia programına konuk oluyor. Sonra tutti i pezzi per Rettore derlemesinde de Kobra şarkısını kaydediyor 2002'de. Uzun kariyeri boyunca hep şiir yazıyor ve bu tutkusunu sürdürdüğü için de şarkı yazarlığı da yapmaya başlıyor. Italo Salizzato ile birlikte Ti Invito al Concerto şarkısı mesela bunlardan biri. Ama bizler yine böyle biraz daha eskilerden melodilerle devam edelim şimdi. Önce Carlo Boni ve Gino Latilla'dan Marietta, arkasından da bir Peggy Lee klasiği olan ve Carlo Boni'nin yorumu İtalyancası çok beğenilen Johnny Guitar'la devam ediyoruz. Posto parte siete no, mai un conto, mai un conto. Posto parte siete no, mai un conto tutti no. Marietta volta in gondola, che mi te porto al lido. Nino che non me fido, che massa un impostor. Cosa te dici coccoa, perché del quel boschetto? Ti mascro un vasetto per bissegarmi il cuore. E ti che dici no, ma mi so che te batte il cuore. Ti che ti che ta, anche lui lo sa, che a Venezia la borsa fa in gondoeta. Dico no, no che vegno no, costo a far del siede no, mai un conto. Guarda che spettacolo, a luna se d'argento. Non far del sentimento, cosa te vol mi so. Sora le tonde cupoe, voale coi un bene. E donte che pur le stelle, ma non me chido no. E ti che dici no. Ma mi so che te batte il cuore, tighe tighe ta, anche lui lo sa, che a Venezia la borsa fa in gondoeta. Dico no, no che degno no, costo a far del siede no, muoio un conto, muoio un conto, costo a far del siede no, muoio un conto tutti no. Va ben, finimo là. Mi ciappo un'altra strada. Se fa una balosata, non so se te conviene. Mi cercherò felicità per farti un bel dispetto. Mi no che non permetto, perché te voglio bene. E ti che dici sì, anche a me si ne batte il cuore. Ti che ta, che felicità. A Venezia la borsa fa in gondoeta, in gondoeta, in gondoeta te darò un basin. Suona per me, solo per me, mai Gianni, so che il tuo cuore non vuol parlare d'amore. Sono folle di te, oh mai Gianni. Gianni Guitar, ovunque andrai io ti dirò che t'amo, e già lo so non ti potrò scordare. Scrivo il nome nel cielo eterna per me, Gianighita. Marietta ve Johnny Guitar dinledik Carla Boni'den. Son yıllarında zaten oldukça hasta olan Carla Boni tüm zorluklara rağmen halkına veda etmek için Portamin India adlı şarkısına bir video çekiyor. Bu videoyu Alessandro Orlando Graziano ile birlikte çekiyorlar. Ve maalesef Roma'da uzun bir hastalık evresinden sonra 17 Ekim 2009'da vefat ediyor. Prima Porta mezarlığına defnediliyor. Şimdi biz önce Portami India parçasına kulak verelim. Arkasından da çok sevilen şarkısı Cassetta in Canada ile Carla Boni şimdi Itabella'da. Con scarpe comode per dispetto Pinco Panco l'incendiò, e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. E tante tante case lui ripete, ma però quel tale Pinco Panco tutte quante le incendiò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. La la la la la la la la la la la la la. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Dicevano che bella la casetta in Canada. Dicevano che bella la casetta in Canada. Dicevano che bella la casetta in Canada. Dicevano che bella la casetta in Canada. Portami in India ve Casetta in Canada ile Carla Boni radyonuzdaydı. Bugün Itabella'ya 50'lerin ve 60'ların İtalyan müzik sahnesinde çok önemli bir yeri olan, pek çok unutulmaz şarkısıyla ismini ve sesini ölümsüzleştiren Carla Boni'nin şarkıları konuk oldu. Yılın en sevdiğim günü olan 29 Şubat programını bugün çok sevdiğim bir İtalyanca parçayla kapatıyoruz. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Carla Boni'den Mambo Italiano ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Miss Mary giunse a Napoli venendo dall'America per imparare tutte le canzoni, ma quando canta che confusione. Ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, no no no, non è solo siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma ehi mambo, no non è tarantella, ehi mambo, non voglio mozzarella, no no no. Mambo italiano, prova ad assaggiare pulpetrilli e baccalà. Oh, ehi cumpa, gridava il giorno a tutto spian, cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo. Lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, no no no. La storia è qui finita, non è più partita, e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma è... ad assaggiare pulpetrilli e baccalà. Oh, e c'è tru, tu vuoi mangiare pasta e fasul, dicendo sempre ehi bambino, non bere molto vino, poi continua.